Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Siamo arrivati finalmente, e questo ormai è sotto l'occhio di tutti, anche di chi ha voluto sempre ignorare l'esistenza di qualcosa che si muoveva nelle fratture, negli interstizi del mondo contemporaneo, al punto in cui le realtà possono essere condivise da chiunque, in qualunque maniera, al di là di ogni vincolo. Avrete sentito parlare moltissimo, perché l'argomento del giorno di Wikileaks è il giorno in cui i giornali non parlano d'altro, di questa misteriosa e improvvisa e dirompente realtà di documenti segreti, riservati, o che perlomeno non devono passare sotto gli occhi tutti, che sono diventati patrimonio comune. Perché? Perché sono stati messi in rete da qualcuno. Scongiurata fino all'ultimo secondo dai leader mondiali, la pubblicazione dei segreti di Assange ora è nota a tutti. L'Iran ha ottenuto sofisticati missili dalla Corea del Nord in grado di colpire l'Europa occidentale. È la prima bomba di Wikileaks. Tocca poi a Berlusconi. Su di lui il giudizio non è leggero. Incapace, vanitoso e inefficace come leader europeo. È il giudizio dell'incaricata d'affari americana a Roma su Silvio Berlusconi, secondo i file segreti di Assange. Il presidente del Consiglio, secondo Wikileaks, sarebbe fragile perché stanco dopo le nottate di feste. E ancora strettissimo il rapporto Berlusconi-Putin, al punto che il presidente del Consiglio italiano farebbe da portavoce al russo. Ce n'è per tutti su Wikileaks. Il presidente francese Sarkozy viene definito l'imperatore nudo. Ahmadinejad, Hitler, per il leader libico Gheddafi, poche parole, usa procacce biondine come infermiere. È un atto irresponsabile il commento che arriva dal Pentagono. In ballo ci sono vite umane. Assange però va avanti e pubblica. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Andrea, qui in studio con me, è un amico di Melg da tanti anni e docente di informatica giuridica all'Università Bicocca di Milano. Andrea, noi da tanti anni stiamo parlando della rete, stiamo parlando dei due mondi che sembrano così contrapposti, il mondo pesante, concreto, fatto di oggetti materiali, e il mondo impalpabile, in concreto, pieno di pregiudizi, pieno di superstizioni, e pieno anche di profezie che non sempre vengono realizzate. Qual è la novità però questa mattina? Noi stiamo assistendo a qualcosa che non avevamo mai valutato prima. Della rete si è sempre parlato negli organi ufficiali come di qualcosa da contenere, o con grande senso di vertigine, come qualcosa che avrebbe cambiato il mondo, che avrebbe creato attraverso gli uomini dei legami nuovi, delle nuove maniere di relazionarsi tra loro, che avrebbe modificato l'economia, avrebbe modificato la società. Invece il primo grande feroce e innegabile sintomo della forza della rete si attraverso una grandissima indiscrezione. Ora, da quello che abbiamo sentito in questo servizio di Sky, non è che ci abbia rivelato Wikileaks delle cose che non sapevamo, che Berlusconi ha le occhiaie, che passa le notti con le ragazze, o che Gheddafi si faccia il botulino o cose del genere. È la riconferma del pettegolezzo. Però qual è la novità invece? La novità è che questo sistema fa esplodere in maniera evidente una caratteristica tipica della rete, cioè la possibilità di comunicare non è più come in passato detenuta da pochi soggetti privati o statali, ma in realtà è in mano a tutti. Questo signore ha pescato queste informazioni, non si sa bene come, ma nel complesso è anche irrilevante, no? Anche irrilevante se siano vere queste informazioni, perché la cosa per noi interessante è che le ha ritrovate e le ha messe a disposizione di tutto il mondo, svelando, cercando di svelare meccanismi comunicativi, diplomatici, che fino a pochi anni fa erano, anzi fino a pochi giorni fa per la verità, erano segreti. Ricostruiamo anche la storia, perché non è detto che tutti siano totalmente al corrente cosa sia accaduto. Tutto nasce da un personaggio dai margini quasi fantastici, romanzeschi. Vedo che l'epica della rete si rimanifesta attraverso la creazione sempre del personaggio fantastico. Questo Assange, questo signore dai capelli ossigenati, chi è? Ma non si sa bene, è australiano, è un milionario, probabilmente ha fatto molti soldi usando quelle tecnologie informatiche o inventando qualche problema, anche qui non si sa bene. Ricostruire la vita di Assange non è affatto affatto una cosa semplice, anche perché lui compare sulla scena del mondiale proprio impiantando in giro per il mondo questa serie di server sui quali inizia a mettere indiscrezioni, informazioni che gli arrivano da tutti gli angoli del mondo. Non si capisce neanche davvero quali siano i criteri con i quali lui sceglie le cose. Nemmeno perché online. Proprio a lui le mandino. Ma le mandano a lui perché lui adesso il suo sito non è nuovo, ha qualche anno e si è conquistato in realtà una fama. Prima sono uscite sul sito, no, tutte le indiscrezioni sulla guerra e sulle guerre americane che l'America sta conducendo in giro per il mondo, quindi si è costruito la fama, si è costruito anche la fama di colui che mantiene assoluta segretezza nei confronti di coloro che gli danno informazioni, che è importantissimo. WikiLeaks infatti, diciamo, riassume il meccanismo di Wikipedia, che è questo sistema di comporre una realtà attraverso tanti contributi legata alle fughe di notizie. Fino a un certo punto il prefisso wiki è un po' ingannevole, perché in realtà a quello che dice lui, almeno a quello che dice che lavorano con lui, le informazioni, l'attendibilità dell'informatore viene verificata, quindi non è, io non posso connettermi al sito adesso e mandare su un'indiscrezione che so sulle abitudini sessuali di Gianluca Nicoletti. Beh, anche Wikipedia c'è un sistema di controllo, ma che è a posteriori. Invece qui no, qui in realtà c'è un filtro a priori sull'attendibilità di colui che ti invia le notizie. Se ha deciso di postare, di mettere sui server questa enorme mole di documenti, 3 milioni di documenti, una roba del genere, insomma, evidentemente la sua fonte, la talpa che gliele ha dati, è, se secondo i suoi criteri, attendibile. Quindi già c'è un sistema, abbiamo individuato con Andrea Rossetti, di inganno rispetto ai proclamati e acclarati sistemi di democrazia di condivisione della rete. È un'area wiki, ma che non è wiki, perché nel senso è controllata a priori, quindi non risponde alle caratteristiche di condivisione e di progresso del sapere condiviso che è tipico dei Wikipedia. Sì, io direi però come deve essere, no? Perché qui effettivamente ci dicono anche indiscrezioni, informazioni importanti a volte, quindi insomma, è importante che almeno potenzialmente, almeno idealmente, le informazioni che vengono messe su siano per quanto possibile controllate. Wikipedia in questo senso, come tutti sappiamo, non è attendibile, no? Perché se sono attendibili le voci generali che parlano, che so, di Aristotele, di Berlusconi, piuttosto che del Papa, queste sono sicuramente controllate, le voci minori di Wikipedia invece sono spesso ingannevoli. Però tu hai detto una cosa molto interessante, questo alone romantico, spontaneista, movimentista di base della rete comincia a essere messo in discussione quando la rete fa parlare di sé, è con un sistema molto ben strutturato. Quello che è messo in crisi è l'idea di saggezza della folla, no? Che viene più volte evocato in questi contesti. Molto spesso in realtà la folla non è affatto saggia, non è affatto in grado di regolarsi da sola, e quindi intervengono meccanismi a priori o a posteriori che controllano ciò che effettivamente viene messo in rete. Paolo Lezzi, buongiorno. Buongiorno. Paolo Lezzi, buongiorno. L'ingegner Paolo Lezzi è l'amministratore delegato della divisione europea della Maglan, che è una delle aziende più grandi, penso, che offre consulenza nel mondo nel campo proprio della difesa da pirati informatici o perlomeno da azioni del genere. Mi corregga se ho detto qualcosa di inesatto. No, è corretto, diciamo, da pirati informatici e da organizzazioni criminali internazionali. Nasce in Israele questa organizzazione? Nasce in Israele 12 anni fa come laboratorio di ricerca sulle evoluzioni tecniche e comportamentali dei metodi di attacco da parte di hacker professionali, terroristi informatici, organizzazioni di spionaggio industriale e computerizzato da una parte, e le problematiche di information warfare e network intelligence, cioè di guerra vera e propria delle informazioni. Fra i vostri clienti ci sono anche, diciamo, i ministeri di vari stati del mondo. Sì, esattamente, esattamente. È singolare, si ricorda Lezzi, noi ci siamo sentiti un mese fa, avete fatto un grande congresso qui a Roma dove annunciavate qualcosa del genere, ma sembrava quasi che fosse qualcosa così di teorico. Avevate già in mente che sarebbe accaduto questo? Non a questo livello, anche se le nostre informazioni ci dicevano che la raccolta era avvenuta, la maniera eclatante con cui sono state pubblicate, rilanciate, eccetera, sicuramente è stato usato un metodo proprio da guerra delle informazioni, devo dire. Ecco, nei limiti che mi può parlare, quali idee vi siete fatto? Oggi i giornali, poi, a seconda del punto di vista, dell'orientamento politico, hanno degli scenari fantastici, fantasiosi. C'è dietro, non so, la CIA, c'è Israele, c'è la Cina, ci sono. Improvvisamente si fanno tutte le dietrologie possibili. A chi conviene e a chi giova questa cosa qui, tendendo a escludere che si tratti veramente di un miliardario eccentrico con voglia di far casino, perlomeno di attirare attenzione su di sé, che abbia messo questa enorme massa di 3 milioni di dati, pare qualcosa del genere, decine di file in rete così per il solo piacere di vedere cosa succede. Diciamo che purtroppo l'ultima cosa che ha detto è quella più vicina alla realtà. Purtroppo c'è questa persona con un'altra rete di persone che sta sfruttando una situazione che è riuscito a creare all'inizio, forse non con questo intento. Sappiamo com'è nata WikiLeaks, c'era anche un altro socio che adesso è molto più posizionato da un'altra parte che Young, e che sicuramente è su un'altra posizione. Sono partiti con l'idea, con un aspetto più idealista, che era quello di andare a porre in pubblico informazioni relative a regimi, cioè dove i diritti umani non venivano salvaguardati o il livello di corruzione era elevatissimo. C'è stato poi un netto spostamento in maniera anche, sappiamo che WikiLeaks raccoglie anche molti fondi, mentre l'idea di Young era quella che rimanesse una cosa assolutamente non profit, e per questo è uno dei motivi anche per cui si è staccato. E poi diciamo che l'altro motivo di diverbio era non creare danni a governativi e soprattutto agli Stati Uniti. Beh, che esattamente convince... l'opposto di quello che sta accadendo adesso, è la prima notizia su tutti i giornali del mondo questa mattina. Esattamente, diciamo che questo è l'intento di Assange, non è evidentemente chiaro, non si capisce dove voglia andare, anche perché non so se avete già avuto modo di sentire che lui da gennaio vuole spostare l'attenzione non più sui governi ma sulle grandi imprese, sulle grandi banche. Il suo obiettivo adesso è andare a colpire le grandi banche, e a gennaio colpirà una grande banca americana, una delle più grandi banche d'America. Lui ha dato una dimostrazione della sua potenza di fuoco. E adesso ha uno strumento formidabile anche di ricatto nelle mani, dicendo per assurdo, potrebbe a chiunque dire: guarda cosa ti posso combinare io. Assolutamente, assolutamente. Questo è. Questo giustificherebbe, diciamo, la finalità poi di profitto di questa operazione. Andrea Rossetti. Sì, è un'incarnazione dell'etica hacker comunque questo signore fa queste portate cose a livello industriale, portate a un livello che non è più semplicemente quello tecnico informatico, ma quello in generale della gestione delle informazioni. Lui fa, insomma, l'impressione che non anch'io, per carità, poi io effettivamente non studio queste cose in maniera approfondita come il tuo ospite, però l'impressione è che lui faccia queste cose unicamente perché vuole dimostrare di poterle fare, e vuole dimostrare che potenzialmente chiunque può fare queste cose. E veramente l'etica hacker, quindi la capacità di smontare degli oggetti tecnologici per rimontarli in maniera che vadano meglio, applicata a un contesto che non è quello tipico degli hacker. 800240024, avete sentito, vi stiamo dando con persone che sanno il fatto loro, che sono dentro al problema, al di là del pettegolezzo, al di là delle interpretazioni, le smentite, è tutta colpa di Berlusconi, è tutto falso perché fatto contro Berlusconi, che è un po' la chiave politica e strapaesana in cui oggi molti nostri giornali trattano questa vicenda, di capire esattamente cosa sta succedendo. Secondo noi questa mattina stiamo osservando a un passo fondamentale nell'acquisizione, nel contrasto, nella messa in collisione tra il mondo digitale e il mondo concreto. Non abbiamo ragione di avere dubbi sull'attendibilità dei documenti che abbiamo. Non ci sono documenti della CIA, né tantomeno delle forze di coalizione, però dentro a questi documenti c'è la maggior parte della regolare attività dell'esercito americano. Sono preoccupato da questo perché la fuga di questi documenti potrebbe mettere a rischio le truppe al fronte. Questi documenti non rivelano nessuna tematica che non era mai stata pubblicata prima. Paolo Lezzi. Su quello che aveva detto anche Rossetti, io faccio un esempio per far capire meglio. Come spesso si dice quando si parla di mafia, l'escalation dal vecchio codice d'onore del vecchio mafioso che gestiva un suo territorio, un certo sistema, e oggi la mafia è diventata qualcos'altro, qualcosa che si è persa dalla sua matrice storico-fantastica. La stessa cosa vale per l'hacker nella sua romantica rappresentazione, che oggi è diventato un signore che ha standardizzato con un sistema industriale il sistema di furto e ricatto attraverso dei segreti, di codici segreti, attraverso la conoscenza, diciamo, degli archivi informatici altrui, o la possibilità di diventare il collettore di chi questi documenti riesce ad averli e posizionarli in un luogo in cui siano fruibili da tutti. Ma allora, io confermo quello che ha detto Rossetti, cioè Assange era un hacker. Negli anni Ottanta lui ha fatto l'hacker in maniera ben evidente, è stato anche condannato, è stato in carcere, poi è stato liberato abbastanza velocemente, ma è stato condannato negli Stati Uniti per hackeraggio su un sito governativo. Quindi noi dobbiamo tenere conto che chi nasce hacker, hacker rimane, che poi possa cominciare a fare altre attività, ma sempre hacker. Molti diventano consulenti di aziende, diventano coloro che aiutano a creare sistemi di protezione, diciamo gli hacker pentiti, li chiamano così. Sì, sì, però di fatto uno è sempre hacker, rimane nel cuore, e quindi diciamo la mentalità non è quella innanzitutto della difesa, ma è sempre quella di andare a mettere il naso dove non si può. Esattamente. Io vorrei sottolineare una cosa, per non per sfatare completamente le capacità di Wikileaks, ma i documenti che sono stati pubblicati, la grande maggioranza, è tra il 2005 e il 2007. Queste informazioni risalgono a documenti del 2005-2007. Questo perché? Perché già nel 2007 c'è stata una forte reazione del Dipartimento della Difesa americano che ha incrementato il livello di difesa della loro intranet. Il 90% di questi documenti sono stati prelevati dalla intranet, quindi non via internet. E sono stati, quindi vengono da dentro, ecco, per detto in parole povere. Esatto, sono stati presi da dentro, da questa SIPARnet o SPIRnet, come viene anche normalmente ricordata, che è la rete segreta della difesa, che è distribuita in tutto il mondo, utilizzata sia dal Dipartimento della Difesa che dal Ministro degli Affari Esteri, dal Segretario di Stato. Quindi lei vorrebbe dire che non è poi una grande operazione di scardinamento, è una talpa all'interno che... Non è un'operazione, questa qui precisa non è un'operazione tecnologica, è un'operazione, sono stati presi i dati con CD-ROM e chiavette USB da persona autorizzata all'interno. Quindi un'operazione, diciamo, di infedeltà di persone che stavano comunque all'interno di un apparato. C'è una talpa o un traditore, chiamiamolo come vogliamo. Talpe che poi hanno dato queste informazioni a Wikileaks tramite la famosa Dropbox. Adesso, come sapete, Dropbox non è neanche più in funzione in questo periodo perché hanno paura di essere tracciati, quindi stanno usando Twitter e Facebook. Una cartella condivisa in cui ognuno poteva mettere dentro della roba e poi loro la pigliavano. Esattamente, quindi questo sottolinea una cosa molto importante, che è quella del security check delle persone. Cioè, noi abbiamo una procedura interna per cui le nostre persone, sia quando vengono assunte che una volta l'anno, vengono sottoposte al test poligrafico, alla macchina della verità e a molti altri test psicoattitudinali sull'aspetto della trustability. Rossetti lo vedo molto perplesso. No, sono incredibile. No, però hanno ragione, scusa. Sì, hanno ragione. No, hanno sicuramente ragione. Perché appunto qui il problema, come diceva, come era credo evidente a tutti, non è stato un hackeraggio tecnologico, ma come spesso avviene peraltro, l'hackeraggio è fatto da qualcuno dentro al meccanismo che è già lì, in qualche maniera, che ha tutte le informazioni, che ha facile accesso alle informazioni. Quindi non ci vogliono particolari abilità informatiche per fare queste cose. Quindi Lezzi, quello che lei dice è molto importante. Oggi un apparato che tratta comunque materiale riservato, o anche una qualsiasi azienda, data la facilità della permeabilità dei segreti dell'azienda, degli aspetti riservati dell'azienda, è necessario che faccia un'operazione molto più stretta e molto più oltre il limite, diciamo, dell'attenzione, della riservatezza, del rispetto della privatezza sull'essere umano. Quindi un essere umano oggi che tratta in un'azienda materiale riservato, proprio perché ha strumenti di così facile diffusione, deve essere testato nella sua capacità organica di essere fedele. Esattamente, sia su questo che deve essere coinvolto idealmente, diciamo, nell'importanza delle informazioni con cui tratta. E la macchina della verità dà dei test attendibili, secondo lei? Dipende da come, ovviamente, anche lì da chi fa le domande, da come la gestisce e da come sa interpretare le domande. però non è solo la macchina della verità, la macchina della verità è un punto, ma ci sono tutta un'altra serie di cose, sia il fatto di educare le persone all'importanza delle informazioni, quindi una cosiddetta awareness, come si dice, dicono gli americani, che deve essere fatta a tutti i livelli, dal management in poi. Se guardiamo come siamo abituati in Italia, i nostri management sono molto laschi nell'uso di tutte le tecnologie possibili e immaginabili moderne, senza stare attenti, e se uno si mettesse a ITRU a scannerizzare un po', porterebbe a casa, diciamo, metà delle informazioni sull'evoluzione del mercato in Europa. Fermiamoci solo un istante, diamo la linea all'informazione della borsa, riprendiamo da questo interessante argomento. In fondo il fatto di Wikileaks, più che analizzare la veridicità e cosa ci sia dietro, ci insegna qualcosa, che oggi chi gestisce strumenti informatici deve dare la possibilità di provare, chi mette in mano a lui questi strumenti e le informazioni riservate, il suo grado di attendibilità. Quindi ritorniamo ancora una volta a un test sulla attendibilità e sulla equazione psicoattitudinale della persona che gestisce poi gli strumenti. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma io sto esaminando naturalmente queste notizie che escono su questo sito. Si tratta, come tutti sapete, di episodi molto precedenti al momento in cui ho assunto l'incarico di ministro e quindi non ne ho una conoscenza diretta, se non come ce l'abbiamo tutti naturalmente. Dal primo esame, ma approfondirò, non mi sembra ci sia assolutamente nulla da modificare sul giudizio estremamente positivo anche in quelle occasioni nei confronti dei nostri militari, e non mi sembra che ci sia nulla di realmente nuovo e trascendentale. Questo era il ministro La Russa, da un po' l'idea di quella che è la percezione alle nostre latitudini di quello che sta accadendo. Ci si preoccupa soltanto che nessuno abbia messo in crisi, o abbia messo in dubbio, o abbia denigrato, o abbia detto qualcosa di non esatto su quello che riguarda il proprio ministero, il proprio compito, la propria piccola area. Ma in realtà sta accadendo qualcosa di maggior respiro che stiamo osservando con i nostri ospiti. Il fenomeno Wikileaks, di cui parlano tutti i giornali, penso di tutto il mondo, stamattina, la storia di questo miliardario fantomatico che avrebbe creato una sorta di collettore in cui le informazioni riservate che vengono appunto da tutti i rapporti diplomatici, soprattutto degli Stati Uniti, circolano per il mondo e vengono fuori cose che in parte già sapevamo. Quello che abbiamo capito finora è che non è tanto lo spessore di queste notizie che sia importante, ma il grande volume, non tanto il sistema di scardinamento di un sistema informatico, quanto la attendibilità delle persone che avevano in mano queste informazioni che hanno fatto trapelare verso l'esterno. Ma tutto questo pone alcune domande. Ne stiamo parlando questa mattina con Andrea Rossetti, che è docente in informatica giuridica all'Università Bicocca di Milano, con l'ingegner Paolo Lezzi, che rappresenta la Maglan Europa, che è una delle più grosse organizzazioni che fornisce consulenza proprio per difendersi da questo tipo di operazione. Parliamo anche con i nostri ascoltatori. Marco, buongiorno. Buongiorno, salve. Volevo dire questo io, che tutto questo, soprattutto noi persone comuni, ci fa capire che quello che capita in rete, in internet, spesso a me viene in mente il fatto di quella ragazza che qualche anno fa ha messo delle foto e poi se ne è pentita. Ecco, questo anche per chi naviga su... Lo so, era troppo sostenere questa conversazione. Ascoltatore Marco, però dava l'idea di quello che volesse dire, cioè stare attenti, tutto quello che si mette in rete rimane. È un po' diversa la situazione, Andrea. Sì, Rossetti. È un po' diversa, peraltro, e poi Paolo Lezzi, visto il mestiere che fa, continua a dire purtroppo è successo questa cosa. Io non sono certo di poter dire purtroppo, perché non è detto che questa operazione a lunga non si riveli in realtà un nuovo modo di concepire la partecipazione in rete o la democrazia. Quindi non è cioè, adesso i giudizi sono negativi, però effettivamente l'impatto che questa operazione avrà sul modo anche di concepire la diplomazia, ad esempio, noi la vedremo nei prossimi mesi o probabilmente nei prossimi anni. Sì, insomma, perché la diplomazia è sempre stata considerata come qualcosa che avvenisse parallelamente e in maniera abbastanza impermeabile rispetto all'informazione. Certo, i diplomati sono abilissimi nel far filtrare unicamente le informazioni che ritengono necessarie per se non sarebbero diplomatici. Esatto, è un po' in parte il loro gioco, e questo livello, cioè la possibilità che le loro chiacchiere, le loro comunicazioni informali venisse svelata, prima non veniva assolutamente presa in considerazione, un livello di comunicazione che loro non prendevano in considerazione. Probabilmente i diplomatici del futuro dovranno tenere in considerazione anche il fatto che le loro chiacchiere, le loro osservazioni anche assolutamente incidentali possono diventare pubbliche pochi anni dopo che le hanno pronunciate. La chiave di tutto questo è, diciamo, lo riassumo proprio in maniera basilare per chi ascolta. Il diplomatico manda puntualmente, periodicamente, dei rapporti al suo paese d'origine, dove dà delle sue impressioni che vanno oltre le dichiarazioni ufficiali dell'area che respira. È giusto, se no non ci sarebbe senso, certo, ci fosse un diplomatico. Quindi può dire: Rossetti c'ha una cravatta che è molto, molto appariscente, oppure Rossetti la sera si ubriaca, cose del genere. Queste cose che non possono passare attraverso i canali ufficiali, però sono informazioni importanti per un paese. Finora queste avvenivano su un canale riservato, la famosa valigetta diplomatica che nessuno può aprire, dimostrava che c'è una sorta di reciproco patto, e non per a caso accade poi lo spionaggio, l'intelligence e tutte queste cose varie. Oggi questo è messo in serio e precario equilibrio. È messo proprio in crisi. I diplomatici di tutto il mondo collaborano in questo, anche quando sono di parte avversa. In realtà collaborano perché il meccanismo della diplomazia funzioni. Questa cosa ha inceppa in qualche modo questo meccanismo che funziona ormai da qualche secolo, direi, insomma, in maniera egregia per mantenere. Sentiamo l'ascoltatore Mario. Mario. Buongiorno. Sento, telefono da Roma. Vorrei dire che, diciamo, il diffondersi della tecnologia oggi è lo strumento maggiore per la diffusione della democrazia. Ce lo dovevamo aspettare quello che sta succedendo, perché quando sono discorsi tecnologici... La democrazia, cioè riempire di documenti... Riempire di documenti che a me, uomo della strada, mi danno uno spaccato preciso di quella che è la politica oggi da parte di uno dei principali stati mondiali. Sì, però l'uomo della strada, se non ha gli strumenti poi per leggere questi documenti, abbiamo spiegato che i rapporti diplomatici... Poi leggeremo e vedremo l'attendibilità dei documenti. Per ora noi abbiamo avuto la Clinton che già in una mezza frase ha detto: d'ora in poi noi cambieremo. Noi sappiamo che gli Stati Uniti conosce l'OT già degli anni 60, dai primi satelliti militari che furono messi in orbita, aveva un sistema di sorveglianza di tutte le comunicazioni mondiali. E questa situazione è continuata, e purtroppo, anzi fortunatamente, perché ci sta... Scusi, no, non è che la voglio interrompere, Mario, perché stiamo andando fuori strada. Continua a illudersi che questi siano momenti che daranno al popolo la possibilità di sapere le cose nascoste. Non è esattamente così, Andrea. No, questo secondo me è uno dei miti un po' della rete, sì, che bisogna sfatare. No, di per sé una tecnologia non porta democrazia. E anzi, se uno legge un po' le riviste specialistiche che riguardano la cybersicurezza e queste cose, vede che la funzione della tecnologia è determinata dal contesto sociale in cui viene operata. Quindi nel nostro contesto effettivamente la rete sembra almeno aumentare la partecipazione del pubblico. In altri contesti la rete è lo strumento principale in cui si reclutano i terroristi. Quindi di per sé una tecnologia non porta democrazia, non porta novità. Sì, è anche illusorio avere 3.000 file di scomposti rapporti diplomatici, l'idea che finalmente capiamo. No, 3 milioni, scusami. Cioè 3 milioni è una quantità di materiale che se mi metto a leggerla oggi penso che finisco tra 2 anni. Non basta una vita per leggere. Francesca Bosco, buongiorno. Buongiorno. Francesca Bosco è esperta di cybercrime dell'UNICRI, che è l'organizzazione dell'ONU che si occupa proprio della ricerca, prevenzione e probabilmente individuazione di crimini informatici? In realtà l'UNICRI è un istituto delle Nazioni Unite che si occupa ad ampio raggio di ricerca e anche attività ovviamente di contrasto e prevenzione alla criminalità internazionale, quindi alla promozione della giustizia internazionale. Nello specifico abbiamo una sezione che si occupa di criminalità informatica. E vi siete attivati questa mattina come ogni altra persona? Sono molto attiva questa mattina, assolutamente sì. Sono molto contenta di aver ascoltato anche gli ospiti che mi hanno preceduto, perché hanno toccato dei punti secondo me fondamentali e soprattutto dal punto di vista internazionale secondo me si sta vedendo un completo cambiamento della percezione di quella che è sempre stata, diciamo. Ecco, questo mi interessa far capire, al di là del luogo comune, dell'uomo della strada che si dice: ah, finalmente le sappiamo le loro cose. Non è esattamente così, è l'aspetto più illusorio. Vediamo l'aspetto reale, la vera novità. Ma io penso ci siano, diciamo, diversi livelli di dibattito ovviamente che avete affrontato anche voi. Concordo sulla questione, sul fatto che la tecnologia di per sé diciamo rappresenti una pietra miliare in questo momento del panorama internazionale che stiamo vedendo per la diffusione delle informazioni, anche per se, la velocità anche che se l'ingegner hanno. Paolo Lezzi della Maglan Europa sì? dice sì, tecnologia fino a un certo punto, si tratta di personaggi infedeli sì. che hanno copiato su una chiavetta i loro dati e l'hanno dati proprio o per desiderio di far casino o per piccole vendette, proprio perché faccia parte della loro doppia attività far trapelare queste notizie. Infatti la tecnologia va appunto inserita nel contesto sociopolitico in cui viviamo, non si può più percepire la sicurezza come un qualcosa di estremamente settoriale. Quando infatti parliamo di cyber security, oggi vediamo che è articolata su varie componenti di diversa natura, quella politica, economica, normativa, quella tecnica, ed occorre pianificare a mio avviso non soltanto le policy ma anche le strategie effettive. Ed effettivamente, secondo me, non è tanto una questione di, ad esempio, cercare di regolare il flusso di informazioni o tutelare il flusso di informazioni, bensì quello che secondo me ha fatto emergere il caso in questione è soprattutto un'incompetenza a gestire e tutelare le informazioni, ma soprattutto partendo dall'interno. Ed è per questo che, come è stato citato prima dal dottor Lezzi, la questione dell'awareness, occorre fare sicuramente awareness adeguata ed a diversi livelli, occorre fare formazione, perché spesso manca la formazione adeguata, e io penso che, soprattutto questo è un argomento di forte dibattito internazionale al momento, si debba spingere sempre di più, anche su queste tematiche, una collaborazione tra pubblico e privato. Ci fermiamo un istante, dobbiamo dare la linea alle informazioni per il traffico. Mi sembra che ancora una volta, anche alla fine di questa seconda parte, si ritorna sullo stesso problema. La tecnologia velocizza, la tecnologia accorcia i tempi, la tecnologia espande la possibilità di trasferire dei dati e le informazioni, ma dietro la tecnologia è importante che chi la manovra, chi la costruisce, chi la amministra, chi la alimenta, sia un essere umano che conosca perfettamente i limiti e le possibilità di espansione di questa tecnologia. A tra un istante. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. 800-24-0024, stiamo parlando il problema che sta in questa mattina colpendo e interessando gli organi di stampa, che sta creando grandi attese ma anche grandi illusioni da parte di chi pensa che Wikileaks sia un'apertura alla democrazia. Stavo parlando adesso con Andrea Rossetti, che è in studio qua con me. Mettete un po' in fila 3 milioni di documenti, date per scontato, ma non è così, che ogni documento sia una pagina, ma è sicuramente più di una pagina. Ecco, leggetevi 3 milioni di pagine, poi ditemi quanto avrete poi alla fine di questa lettura, se avete tempo, disposizione, vita, capito e avuto di nuovo. Paolo Lezzi, in linea ancora? Sì, sì. Ricordo, amministratore delegato della Maglan per l'Europa, rispetto a tutto quello che abbiamo detto, come vede siamo divisi fra due grandi filoni. Di base c'è un grande senso di riscatto popolare, finalmente i grandi sono in ginocchio, finalmente un eroe pure integerrimo gliela fa vedere, ma in realtà se andiamo a analizzare questa operazione, in realtà non abbiamo quasi nulla di nuovo o poco di nuovo o poche cose che non sapevamo, abbiamo soltanto la percezione, ma è venuta fuori questa mattina, devo dire, in questa trasmissione non vedevo qualcosa del genere sui giornali, molto interessati a verificare la veridicità di questi documenti. Io sfido qualunque collega a dirmi nel giro di 3 mesi, se fosse possibile, quanto su 3 milioni di documenti ha potuto lui analizzare e verificare. No, il fatto è un altro, è la tecnologia che abbiamo capito, come dice Rossetti, non è equivalente a democrazia, è uno strumento che moltiplica, amplifica, è una protesi che prolunga in maniera indefinibile il potere di diffusione di un documento, presuppone a monte un controllo sulla risorsa umana molto più attento. Mi sembra questa l'abbia sollevato lei questa mattina il problema. Sì, confermo assolutamente questo aspetto, nel senso che come adesso non faccio, voglio fare paragoni banali, ma se il vino, noi siamo italiani, abbiamo uno dei migliori vini, tra i migliori vini del mondo, va usato con moderazione, va usato nel modo giusto, al momento giusto e associando vino giusto a pietanza giusta. La tecnologia è nata dall'uomo per migliorarsi la vita, non per renderla più difficile o per creare problemi. Un uso della tecnologia, ma Wikileaks non può essere considerata pura tecnologia, come abbiamo già detto, può essere strumentale. Sì, non è nulla di nuovo, da un punto di vista strutturale, tecnologico, di sistema, non è nulla di nuovo. No, è semplicemente un sito dove viene pubblicata della roba, fine. Esatto, esattamente. L'unica cosa è qui che, diciamo, la fonte in qualche modo può essere anonimizzata. formalmente, poi sappiamo che non, di fatto alla fine non lo è. In più c'è un aspetto che forse non piccolissimo non abbiamo toccato, è quello del riciclaggio delle informazioni. Oltre al riciclaggio generale c'è il riciclaggio delle informazioni. Wikileaks viene usata da determinati giornalisti anche per questo motivo. Wikileaks non riesce neanche a controllare tutti i milioni di informazioni che ogni giorno possono essere inserite. Giornalisti potrebbero avere delle informazioni che per motivi legali o di altro non possono pubblicare direttamente, le postano su Wikileaks, dopodiché possono farsi la loro storia. Sì, qualcosa del genere accade in Italia, si ricorda quando venne fuori la non possibilità di diffondere intercettazioni, tutti dicevano adesso facciamo questa paraculata, le pubblichiamo in un server estero e poi diamo semplicemente il link, poi veniva il problema se dare il link fosse stato giuridicamente perseguibile. Io mi ricordo, ti ricordi Andrea, parlammo di questa cosa. Certo, l'anonimato di per sé non è una cosa negativa, no? Perché l'anonimato in alcuni casi permette di raccontare cose sotto le quali vere, ma sotto le quali io non posso mettere il nome a meno di non correre rischi incredibili. Certo, qui c'è un uso però nuovo, se volete, dell'anonimato, appunto perché qui la dimensione è veramente globale, i documenti hanno raggiunto tutto il mondo, quindi non si tratta più della piccola spiata su quello che fa il mio capo ufficio, ma di quello che fanno i governi. Io vorrei però adesso, proprio per essere completo nell'informazione in questo programma, dare la parola a un altro ospite, professor Gerardo Iovane. Buongiorno. Buongiorno. È un docente di analisi matematica all'Università di Salerno, esperto in sicurezza informatica. Lei dovrebbe dirci questa mattina, brevemente, con gli strumenti tecnici a sua disposizione, qual è esattamente, secondo lei, alla luce di quanto è stato detto e scritto, il vero livello di violazione informatica che è stata fatta nel caso di Wikileaks? C'è stata veramente un'operazione di hackeraggio, di scassinamento, o è stato semplicemente, come abbiamo detto noi, una sorta di osmosi volontaria di dati riservati? Certo, innanzitutto mi permetta di salutare innanzitutto gli ospiti presenti con cui io condivido le considerazioni fatte, tra l'altro proprio come accennava poc'anzi Lezzi della Maglan, il mese scorso abbiamo avuto questo evento a Roma proprio sulla cyber war, che fa capire come in realtà lo scenario si stia evolvendo, non si parla più soltanto di hacking e di cracking, ma in realtà siamo davvero proiettati in un momento di guerra delle informazioni. Il punto principale è che appunto trattiamo una tematica estremamente complessa in cui Wikileaks è un pezzo, forse il pezzo meno pericoloso, anche se più folcloristico. Di fatto noi ogni giorno abbiamo al nostro seguito meccanismi di viralità, dalla semplice chiavetta che ci portiamo in ufficio tutte le mattine e quindi le colleghiamo ora all'ufficio, ora alla casa, diventa uno strumento con cui portiamo in giro, ecco perché meccanismi di viralità, portiamo in giro informazioni dalle più alle meno classificate. Ma corrisponde in realtà, professore, che le vere operazioni che fanno male sono quelle di cui non si sa nulla? Le vere violazioni degli archivi informatici, prima che escano sui giornali ne passa di tempo? È chiaro, è chiaro. Quello che sta accadendo, ecco, se vogliamo ripercorrere un attimo soltanto l'ultimo periodo, è che dal 2009 ad oggi c'è una reale escalation. Io ricordo all'inizio del 2009 dove appariva su siti di hacking i primi algoritmi di hacking avanzato che utilizzavano le mie ricerche sulla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche invece per costruire codici di rottura. Da lì, appunto, lo scorso anno abbiamo visto le prime applicazioni ai sistemi SCADA. I sistemi SCADA sono dei sistemi che appunto permettono di controllare strumentazione e quindi non è più una, come dire, una violazione delle informazioni, ma diventa anche una violazione di meccanismi. Gli SCADA permettono di controllare le centrali elettriche, le centrali. Quindi abbiamo capito, e la sigla ci porta via, ma professor Iovane, riprenderemo con lei questo argomento, mi sembra molto importante, fondamentale, che in realtà le vere violazioni poi agiscono sul sistema concreto. Bloccare una centrale elettrica, agire su un acquedotto, significa creare dei danni concreti e tangibili agli esseri che poi oggi si beano, leggono e si affascinano delle vicende del signore di Wikileaks, di cui sentiremo ancora parlare, ma parleremo in questa trasmissione. Grazie agli ospiti, a domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.